Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Charlie Chaplin partecipò a un concorso per sosia di Charlie Chaplin a Monte Carlo e arrivò terzo. Quella è una storia assurda. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Spero che si possa ancora ricucire. E Bertolaso possa fare un passo di lato. Che Berlusconi capisca che la battaglia sulla leadership del centrodestra non frega niente a nessuno. A me proprio non me ne potrebbe fregare di meno. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e che ogni tanto ritornano, non so chi sarà stato a consigliarle di scendere, Alemanno, Berlusconi col quale ha governato, La Russa col quale ha fondato un partito, sono sempre loro, Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, io e te. Il nostro obiettivo è arrivare al ballottaggio con Giorgia Meloni e penso che i romani ci daranno una mano. A quel punto, se il centrodestra vuole unirsi, sarà unito, se non al primo o al secondo turno. Io e te, che stiamo in movimento. Io e te, io e te, che abbiamo fatto un sogno. Quella è una scelta personale. Basta con queste domande. Voi siete genitori? Come fate a conciliare il lavoro di genitori con giornalisti? Vi piace questa domanda? No, ma lavorate, eppure lavorate. Siete... No, è la stessa cosa. È un lavoro, è un lavoro. Si è genitori... Sì, quanti personaggi pubblici sono genitori, donne e uomini? Altro che Rolling Stone, altro che football. E così Virginia Raggi, candidata al Movimento 5 Stelle a Roma, tronca ogni discussione, basta le domande sulla mamma Meloni, Meloni mamma. Vincino ci fa pure le vignette sul foglio, in prima pagina, sì. La Meloni. Ho voglia di fragole, no, di Campidoglio, la voglia di fragole, ma basta queste cose, basta, mamma Meloni, basta, che abbiamo fatto a pugni. Comunque sì, è uno spettacolo, le amministrative, lo spettacolo, lo show, tutto gratuito, poi magari pagherete con candidati non all'altezza, con delle belle tassone giganti, anzi devo fare la mia promessa elettorale se mi candido a Roma, devo ancora decidere come Flavio Tosi, sono lì. La promessa di oggi è questa... Silenzio, non c'è una musichetta, qualcosa di solenne, no? Abolirò gli scioperi dei mezzi pubblici. Basta, via. Ricordatevi che ieri avevo promesso le Olimpiadi a Roma, ma ogni due anni faremo qualcosa di straordinario, di eccezionale, di irripetibile, di unico. Ogni due anni le Olimpiadi a Roma. Ho preso la chitarra. E oggi posso dire con me sindaco Alessandro Milan, sindaco Milan, sindaco di Roma, come Brambilla sindaco a Napoli, come Napoli sindaco a Torino. Amore. Sono cose che possono capitare sul serio. Io dico basta scioperi, aboliti per decreto prefettizio dell'assessore che nominerò Tronca, mio assessore. Così lo tratto, così assessore, stia tranquillo. Mi sono lasciato prendere la mano, sono le 6.31, d'altronde è venerdì e si chiude la 150esima settimana decisiva per abolire le province. Siamo qui alle 6.31, vorrei anche convocare tutti voi cari ascoltatori. Saluto subito, lo faccio già preventivamente, non so se mi ha scritto anche oggi, Mauro Fieni, tennis coach da Hong Kong, ci segue, ieri ci ha mandato anche un messaggio audio, voleva dirci... Ciao da Hong Kong, lo diciamo noi oggi. Ciao, grazie Mauro. Come va a Top Spin? Come va a Smash? Come vanno a Smash lì a Hong Kong? Come vanno con la demi-volée a Hong Kong di rovescio? La demi-volée di rovescio incrociata di John McEnroe. Sono cresciuto così. Con la demi-volée incrociata perfetta di John Patrick McEnroe. Mamma mia, ragazzi. Allora, qui abbiamo un uomo che disegna una Giorgia Meloni come mamma. Il nostro grandissimo, dall'immarcescibile, soleggiata, ridente, caldissima Mondello è il nostro Vincino. Buongiorno. Come stai? Bene, bene. Tutto a posto? Tutto a posto. Hai finito? Ha detto anche la Raggi, basta sta cosa della Meloni mamma. Basta, ha deciso la Raggi, sai che... No, ma... Ritorniamo alla Meloni nello studio di Previti, che Previti lo guardava solo nel corridoio. No, la Raggi era nello studio di Previti. Ah no, è la Raggi, mi confondo. Ti confondi. Non fare confusione, che già ce n'è abbastanza di confusione. Esatto. Tra l'altro, insieme a Vincino c'è un candidato sindaco per la città di Roma, è Carlo Rienzi, presidente del CODA CONS. Buongiorno, avvocato Rienzi. Tutto a posto. Febbre. La voce da febbre? No, bisogna fare i comizi. Come si fa? Vabbè, capita però. Ieri poi ho sentito la Raggi, quindi non ci ho capito niente veramente di quello che ha promesso. Spero che voi abbiate capito qualche cosa. No, non lo so, non l'ho seguita adesso ieri. Cosa ha fatto ieri? Ieri a Virus, che è la trasmissione sul Rai 2. Sì, sì. Sono tutti così, dicono tutti che faranno tutto. È andata a Virus. Elimineremo tutti gli sprechi. Ha fatto venire la febbre a Rienzi. La febbre a me. Che intanto ieri abbiamo dovuto fare una battaglia per limitare uno sciopero dei mezzi a Roma, che è stato limitato solo la mattina. Oh, io invece lo abolirò da sindaco, concreto. Lo abolirò, quindi. Ah, solo al mattino, ecco, perché l'avvocato Rienzi in queste cose è precisissimo. Allora, I taxi non fanno sciopero. Solo la mattina. Gli autobus grazie solo la mattina. Grazie alla sfida fatta alla commissione di controllo. Grazie al CODACONS. Cosa ha fatto per Roma? Grazie. Il CODACONS vi ha tolto mezzo sciopero oggi. Vi ha tolto mezzo sciopero. Non niente, guarda che è un problema andare a Roma sciopero tutti. Certo che è un problema. Però come si fa ad andare a lavorare questa mattina? In taxi, visto che non sciopero. In taxi oppure... prima dell'orario, prima delle 9, e poi si tornerà dopo. E poi si tornerà. Cari romani, dovete andare a lavorare prima delle 9. Questa è la vera tragedia della giornata vostra del venerdì. Iniziare a lavorare prima delle 9. Questa è veramente una tragedia contro la quale neppure il CODACONS, mettendo in mezzo tutte le proprie forze, è riuscito a fare nulla. Oggi vi tocca. Sinceramente no. Oggi vi tocca. Allora, scriveteci al 349-238-6666. Mandateci i vostri audio se siete su WhatsApp. Ci saluta da New York Pietro, che bello questa cosa. Da New York ci saluta al solito il Meratese, da Merate, dove passavo la mia infanzia da mio zio. E ci saluta anche da Dresda un ascoltatore. Se vi firmate, magari vi saluto anche con il nome di battesimo. Dobbiamo aprire il Parlamento, però, caro Carmelo. Ho una domanda da fare subito a Vincino. Allora, caro Vincenzo. Ma che non sia complicata, No, perché a quest'ora già... No, per carità, è semplicissima. Allora, ti ho detto, tu non lo sai, ma la voglio fare risentire, la questione di Flavio Tosi. Hai sentito? Per me è la notizia più incredibile, che forse Flavio Tosi si candida sindaco a Roma. La sapevi questa? Sì. Non sono andato dentro, nei sottotitoli di qualche cosa. Non era tra le cose che mi interessavano particolarmente. La cosa che ho rilanciato ieri è che è un po' colpa mia questa cosa, perché all'8 marzo, quando ero in TV in Contosi, alla 7, sì. Ho buttato lì questa cosa. C'era Tosi e c'ero io, senti. Perché il dramma è che Roma vive da molti anni, in particolare Ignazio Marino, ma anche altri, di assoluto non governo. Cioè a Roma serve un sindaco che sappia fare il sindaco. Si candida Tosi. Tosi da Verona a Roma. Ecco, si candida Tosi, sono io, Vincino. Ma io l'ho detto come battuta. Mia. E lui ha detto, mi hai dato un'idea. Ma io giuro, era una battuta la mia. E allora mi chiedo, e ti chiedo questo, caro Vincino. Siccome Tosi, ho lanciato questa idea, la prende. Siccome Carlo Rienzi è da 2 anni ospite qui al Parlamento e si candida a Roma. Siccome Mario Adinolfi è da 2 anni ospite nostro e si candida a Roma, non è il caso di chiudere la trasmissione, che abbiamo fatto già un po' di danni? No, con la mia candidatura. Avvocato, si scherza, ma, ovviamente. Ma no, ma date invece spazio, parlate, dibattete i problemi, ci sono tante cose da discutere. Per esempio, il primo problema per Roma, Rienzi, qual è? Il primo problema per Roma. No, c'è un problema risolto per tutta Italia intanto. Che finalmente hanno tolto gli interessi usurari anche sulle carte di credito revolving. Grazie. Degli italiani, non solo dei romani. Grazie al. Perché abbiamo vinto talmente tante di quelle cause che alla fine le banche, piuttosto che perdere le cause e pagare i danni e le spese, è interessante. Hanno chiesto al governo di fargli la modifica legislativa. Però è un grande passo avanti. Perché anche le carte di credito, dove ci vede ogni volta che arriva il fogliettino a casa, c'è sempre qualche cosa in più, qualcosa in più, qualcosa in più. Vincino è uno che con le banche ha sempre un buon rapporto. Vincino, tu ci racconti un po' il tuo rapporto? Non è che un disastro, guarda. No, è divertente il rapporto tra banche e governo, che le banche disperate chiamano il governo subito, via, tac, e gli ha fatto così. Tutto quello che vogliono le banche. No, ma la vera notizia del giorno in realtà, e qui vorrei che mi diceste qualcosa, è la condanna, Vincino, a Verdini. Ex editore del Foglio, peraltro, ma è ancora editore del Foglio? Ne puoi parlare? Era, credo che abbia un minimo, sia rimasto qualcosa, uno 0%. Quindi non ne lo puoi so, parlare così? Ma no, io ne ho sempre potuto parlare. E che ci dici di Verdini condannato? Ma sinceramente questa cosa qua non l'ho capita bene, però vabbè, non l'avrai seguita come me. Vabbè, tu l'hai seguita bene, allora che cosa ha fatto lui? Ho detto guarda, quello è bravo, non l'ho che seguita. Che cosa fanno i ministri e gli altri intorno? Dicono che devo nominare là, quello è bravo, quello non è bravo, che ne so. Che possa essere viste in qualsiasi modo. Ho capito, sono state viste dai giudici con una condanna, che ti devo dire? Secondo grado, poi vediamo come andrà a finire. Finirà in prescrizione, te lo dico io, finirà allora, in prescrizione tra poco. Allora se finisce in prescrizione che cosa... Ho capito, però quindi per Renzi scusa, è tutto... Ma secondo te Renzi, non ho capito, Verdini che cos'è, sottosegretario? Ministro? No. Che vota, deve fare? Vota la fiducia ogni tanto. Vota la fiducia, come dire, gli arriva, cioè, che fai? Gli arriva. Non votarmi la fiducia, vergogna, per favore cancellate i voti di Verdini. Quindi non c'è nessun imbarazzo per Renzi? Assolutamente, secondo me no. Renzi ha imbarazzi di tante altre cose. Per esempio, dimmi quella di cui deve essere più imbarazzato. Ma attenzione alle trivelle, ma chi si astiene? Il referendum è una delle cose più importanti per la democrazia. Vai a votare, vota no. Ma non che ti astieni per far venire meno il numero legale. Cioè per Renzi la cosa più imbarazzante è il PD che ieri ha detto sul referendum per le trivelle si vota tra un mese, cari italiani, manco lo sapete. Ma poi l'idea di dire astenetevi, non dice il PD, astenetevi. Ma che modi sono? È il modo per fare naufragare il referendum. Allora devi dirsi come vogliamo far rimanere le trivelle, vi invitiamo a non andare a votare. Ma non sembra che quasi l'astensione sia una posizione signorile di libertà di coscienza? Ma che cavolo stanno a dire? Vabbè. Però è compito di quelli che muovono il referendum di portare la gente a votare. Un partito come il PD ti dice non andare, non aspetta altro che andarsene al mare. No, più che altro la vera discussione è che la solita minoranza del PD dice: ma perché il PD dice non andare a votare? Non abbiamo deciso. Sai che lì sono spaccati mille rivoli, mille robe, quindi dicono perché. Ma diciamo che il concetto è semplicemente che il referendum è una delle poche forme di espressione, diciamo, della volontà popolare. Però c'è libertà anche di poter dire non andate a votare, cioè che vuol dire non si raggiunge il quorum. Ma non dicendo astenetevi perché non si sa che cosa è giusto fare, dicendo se voi non andate fallisce il referendum e resta noi siamo le contenti e noi siamo contenti. Quindi Vigliano ha detto questo, è quello che dovrebbero dire secondo Renzi, Vincino. Secondo Renzi è quello che dovrebbero dire. Dovrebbero dire in maniera chiara: non andate a votare, però, così. Ma siete voi che dovete, come dire, mobilitare, fare meravigliosi manifesti, assoldare i più bravi disegnatori d'Italia per portare Siete voi, Renzi, siete voi. Ma con tutte le cause vinte, scusami. Vincete anche un referendum. Vincete anche un referendum, Renzi. I radicali ci riuscivano a portare la gente a votare. Vabbè, comunque l'appello Renzi l'ha fatto. Andate a votare al referendum, informatevi, andate a votare. No, non importa, votano quello che sentono di votare. Ma votino. Vadano a votare. Però io vorrei capire, caro Vincino, sai chi abbiamo alle 8.40 ospite? Alle 8.40? Chi avete? L'uomo più onesto all'interno del raccordo anulare. Ah, Giachetti. Poveretto, Giachetti, che gli ha detto quello dell'unità, gli ha detto a pancia a terra tutti per Giachetti. Mamma mia, è terribile. Non ti è piaciuta l'espressione? No, non mi piacciono queste espressioni qua così. No, io sono razionalmente per Giachetti così, perché... Tu voti Giachetti, tu voterai Giachetti. Ma tu voti a Roma o... Io voto a Roma, non voto a Mondello, voto e a chi Roma. Voterai? A tuttora voto Giachetti, però come se mi convince, se quella di Renzi mi convince o qualche altro, voterò per, non lo so. Forse Renzi, ma questa è una cosa di paraculismo clamoroso, potresti votare o Giachetti. Sinora io programmi convincenti, ma manca un po' di tempo. Zero dalla Raggi, zero da quasi dappertutto, ecco, no. Ma secondo me a te la Raggi ti può convincere, secondo me tu... Tu ti farai convincere anche dalla Raggi. L'altra volta hai fatto un'apertura al Movimento 5 Stelle. È disposto a sacrificarsi a non entrare con la macchina al centro di Roma? Ecco, per esempio. Ma assolutamente, guarda, io già con la macchina non la prendo. E anche col motorino, Allora, bravo, vuol dire che è uno che non ha egoismi e privilegi, quindi puoi votare pure per me. Ma io sono assolutamente per tram. Io adoro i tram, il metro. Poi a Roma sono tutti gratis, praticamente. No, come tutti gratis? Ti giuro, allora non c'è mai. Cioè, il tram che amo di più è quello che va dalla piramide a Parioli. Quante volte paghi il biglietto lì? È sempre pieno, ma soprattutto di gli stranieri. Ma tu quando lo prendi, tu paghi il biglietto? Sono l'unico. L'unico, lo paghi? L'unico. Siamo in 10, non lo so, ci riconosciamo subito là dentro quel tram, quelli che hanno il biglietto. Ma non ho mai visto un contro. Pensavo io. E ti vergogni un po'. Se fossi proprietario di quel tram, la cosa più bella sarebbe contare i biglietti. Ha un tram e è bello, entra, paga. Costa ho pure capito, poco, ma ti vergogni un po' di pagare il biglietto? No, io mi vergogno. Vi guardano un po' come dire. Vi guardano un po' come dire, ma cosa fanno questi? Pagano il biglietto? No, quando arriva il controllo. Quando hai visto l'ultima volta un controllore su quel tram, Vincino? No, non l'ho mai visto. Invece a Palermo, allora Mondello Palermo c'è sempre. Guarda, una volta che non avevo il biglietto, un disastro, guarda. Sempre. Poi fermano addirittura il tram in mezzo alla favorita, scendono, arriva la polizia, tutti circondano e via. No, allora non farti arrestare, che non sarebbe la prima volta. Non farti arrestare e portare in carcere, che stavolta non ti tiriamo fuori più. Allora, dobbiamo andare al traffico. No, perché Renzi, dopo lo riepiloghiamo. Attenzione, signori, Renzi ha un programma per Roma. Di sacrifici per voi, cari romani. Sacrifici è un programma esplicitamente contro i cittadini. È un genio contro i cittadini. Penso, per esempio, prima proposta: un bel ticket tra i 10 e i 20 euro per entrare in centro. 10-20 euro a ogni entrata. Tra poco, traffico. Mauro Fieni, il tennis coach da Hong Kong, vi saluta in diretta. Buongiorno, ciao. Ciao Milan, resti sempre un inutile milanista. Ciao inutile, ciao. Godi Milan, godi, tanto con la squadra di deiezioni di cane che vi ritrovate, al limite delle sconfitte altrui puoi godere. Milan, è solo la soddisfazione di un somaro come te vedere e godere di un cavallo puro sangue come la Juve Zoppo. Müller, fai l'amore con il sapore. Buah! A Milan, te sei proprio rutamat, forza Juve! Milan, non sei cattivo, sei proprio stronzo. Alino, ma tu sei quello stesso Alino Milan invitato a tutti i convocati dove ci si domandava se il Milan quest'anno sarebbe retrocesso? No, così, per sapere. Ah Milan, speriamo tu schiatti. Vabbè, l'hanno presa molto bene, caro avvocato Rienzi, i sostenitori della Juve, questa eliminazione Champions League. Vincino, hai sentito? Ho sentito. Sì, e questo abbiamo messo i più sfumati, abbiamo messo i più gentili, i più cortesi, coloro che vi hanno, ci hanno mandato su WhatsApp. E vabbè, insomma, l'hanno presa benissimo. Allora, visto che di programmi non si sente molto, sentiamo qui... Giorgia Meloni che canta Radio Rock, e d'altronde così, palette pronte, caro Rienzi, caro Vincino, da 0 a 10, dai, canta che cosa? Viva la mamma, ovviamente. Viva la mamma, affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, brava, sempre così sincera. Beh, dai, pensate cosa ho obbligato a fare per diventare sindaco. Viva la mamma, viva sì, è lei. Vincino, è lei. È lei. No. Cioè, senti. Angeli ballano il rock. Ora aiutata un po' dalla piazza, dai sostenitori. Vera, viva la mamma, perché se ti parlo di lei. Vabbè, Vincino, sull'acuto. Vabbè, però dai, che gli diamo? Un bel 7, io direi. Questa storia della mamma ci ha proprio rotto. Due meno. Sì, esatto, questa storia della mamma ci ha proprio fracassato i gambasisi, come direbbe. Ma scusa, è talmente assurdo dire che non può fare il sindaco una mamma, una che sta incinta. Che avete considerato, se fosse così, una donna non sterile e non in menopausa non potrebbe mai fare il sindaco, perché esatto, un anno dopo è potenzialmente sempre incinta, no? Tu gli hai dato perché uno meno meno, Vincino, ma perché uno meno meno? Dai, non mi è una voce sgraziata devo dire. Ma tu, io lo so che tu ce lo vuoi dire questa cosa, che sono fascisti, ce l'hai, secondo me, no, dai tirala fuori questa tua rabbia. Beh, la Meloni è una gran fascistona. Sì, una gran fascistona, no? Conosce Roma certo meglio della Raggi. No, com'è una gran fascistona, Rienzi? Ma conosce Roma meglio della Raggi. Però è una gran fascistona. Vabbè, è la tua storia. Vincino, è così? C'è uno che mi insulta perché non ho parlato male, non ha le palle di dire niente su Verdini. Ma io non lo so. Su Twitter? Ma chi sì, ti tratta male? Che ne so, guarda, non lo so. No, adesso devi dire qualcosa di male su Verdini, sennò questo qui non passa una buona giornata. È grasso. È grasso. Ma sì, fa proprio schifo, non lo so, è che cosa è orribile, mamma mia, sei vergogna. Disegnalo proprio, proprio schifoso. Che cavolo, ma secondo me Renzi peraltro ce l'ha la maggioranza anche senza Verdini, non beh, è che... insomma sì. Renzi, Orienti. Ma sì, al Senato sotto sarebbero tutti a favore del governo Renzi, pur di non tornare immediatamente, non farlo cadere subito, sì, dai. Sì. Vabbè, ma questa storia del fascismo è fascistona, la Meloni, vicino, è fascistona ancora, ma certamente che lo è, non è che l'SI nasce là, la fiamma è quello, la fiamma la tomba di Mussolini, non è che erano tutti fascisti, Fini era il fascismo del 2000, dai, non è che, ma lei quando diventa ministra della gioventù che cosa fa? Non fa altro che dare soldi ai gruppi di giovani fascisti di tutta Italia, dai, non ha fatto una cosa degna partito. Per i giovani italiani, non l'ha fatta. È partito. No, vabbè, tu sei un provocatore nato, insomma, non è che infatti io lo sapevo, te l'ho tirata fuori così poco alla volta. Una faticata, esatto. Però alla fine prima ancora i Rienzi di me, scusa, prima te l'ho fatta ascoltare la radio, la radio. Poi dopo Rienzi è capitolato, Vincino ha tirato fuori quello che veramente pensa della Giorgia Meloni, che dobbiamo fare. Va bene, Rienzi, a parte un'altra cosa del programma contro i cittadini, così la votano? Mi vuoi mettere in difficoltà, eh? No, è il programma. Ma quando si paga per entrare a Roma, però, sì. Sì, immediatamente dal giorno dopo, tram, metro e bus devono essere gratuiti dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18. Come adesso il tram di Vincino? Quindi no, il giorno dopo si mette immediatamente. Già c'è. Vincino dice già che è gratis, che nessuno paga. Cioè, arriva il comune, gli mette questo ticket che è di 20 euro per gli esterni e 10 per i residenti. E con quei soldi immediatamente si fa gratuito il servizio pubblico. Cioè, liberano le strade e cominciamo a vivere. A respirare, a sopravvivere. La differenza, Vincino, che già c'è adesso, ma sarebbe illegale, ecco, diglielo magari a quelli. Ma io farei tram e autobus sempre gratis per tutti. Sempre. Non è che, e chiudere il centro storico totale per tutti, insomma, quale cosa no, dicevo. Stai cercando di farmi concorrenza come sindaco a Roma? Ma assolutamente, non è che è semplice. I romani non sono tutti disponibili così, hanno una cultura molto. Ma tu sei sindaco e chiudi. Ma che secondo te, quando gli hanno chiuso il triangolo alle moto? Cioè tutti non hanno fatto niente, buoni si sono acchiuppati la chiusura da Piazza del Popolo sino a Piazza Venezia alle volte e via. Comunque oggi è anche una grande giornata, io nel dovevi salutare, oggi è una grande giornata, una giornata in cui, caro Rienzi, forse ci sarà un altro candidato sindaco a Roma, sa chi? Forse scioglie la riserva, Ignazio Marino. Chi? Ignazio Marino. Marino. Vabbè, tanto uno in più, uno in meno, non ci dà fastidio. Vabbè, però lui l'ha già fatto, quindi ne sa qualcosa. Sì, infatti ha fatto la pedonalizzazione dei fori. In quei tanti anni ha fatto bene. L'unica cosa che ha fatto, poverino. Rienzi si rimetta che deve fare i comizi per portarci tutti con uno strapuntino al comune di Roma, Roma capitale. Noi vogliamo un assessorato qualunque, mi raccomando. Allora, l'avvocato Carlo Rienzi, presidente del CODA con Sei Vincino, grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. È venerdì! Amici miei, questo è il nostro manifesto del venerdì. Noi ci dobbiamo subire Milan che ti rompe le palle 6 mesi prima quando va in ferie, 6 mesi dopo quando torna indietro, sospira e piange, ci dice piango. Che si alza al mattino regolarmente come io ho 30 anni che mi alzo alle 5 del mattino. Vabbè, cari italiani, tutto a posto. È venerdì e si chiude la 150esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Anche questa con un nulla di fatto comincio a insospettirmi, ma la 151esima è alle porte e siccome bisogna sempre essere ottimisti, non rompere le scatole, come dice questo ascoltatore, bisogna guardare positivamente alla settimana prossima. 151. Allora, vi ricordo che alle 8.40 avremo ospite Roberto Giachetti, il candidato per il centro-sinistra a Roma. Al momento l'unico candidato per il PD, diciamo. Però poi vedremo se ci saranno altri candidati, cosa che lo stesso Giachetti non si auspica, almeno all'interno del Partito Democratico. Intanto dobbiamo leggere i giornali? Sì. Dobbiamo leggere i giornali, eccoci qua, venerdì 18 marzo per l'appunto. I titoli, le aperture, il Sole 24 Ore apre sull'Europa, il presidente della BCE Draghi che lancia il forte richiamo sulla responsabilità della politica, titolo di prima pagina, fare chiarezza sul futuro dell'Eurozona. Servono riforme per stimolare la domanda, tasse più basse e investimenti, così Draghi. Poi, guardando sempre a orizzonti internazionali, Repubblica, fermiamo il genocidio dell'ISIS. È John Kerry, il segretario di Stato americano, che annuncia impediremo nuove stragi. La parola genocidio è importante usata da Kerry, perché se si usa la parola genocidio c'è la possibilità di alzare un po' il tiro negli attacchi. infatti viene usata molto raramente. La stampa: Europa, ultima offerta alla Turchia, si parla di immigrati. Così anche per Avvenire: cose turche all'Unione Europea, task force in Grecia per vagliare le richieste d'asilo. Invece in Italia, Corriere della Sera: Verdini, lite sulla condanna, sinistra Dem all'attacco con 5 Stelle e Lega, ma il PD dice non governa con noi. Il Messaggero: Verdini condannato, caso nel PD. Anche il Fatto Quotidiano: i condannati del Nazareno, primo Verdini e poi si mette anche insieme la condanna a Confalonieri e Pier Silvio Berlusconi, che sono per il Fatto i capifila dell'ala dialogante di Mediaset con il governo. Per il Giornale invece: banche, Renzi deve pagare, l'Unione Europea gela il governo, i clienti truffati vanno subito risarciti. E infine Libero: in ballo 30 miliardi, Renzi vuol tagliare le tasse, ecco come e chi ci perde. Io però vorrei fare un appello a proposito di tagli, e lo faccio leggendo questa inchiesta di Repubblica di Michele Bocci a pagina 18-19, tagliare le liste d'attesa negli ospedali, perché ci sono ancora situazioni certificate da questa inchiesta di Repubblica come i 500 giorni per una mammografia. Da Milano a Palermo l'attesa infinita dei pazienti d'Italia. I numeri, per la verità, secondo il Censis, dicono che per una visita ginecologica in tutta Italia servono 38 giorni di attesa, 38,2. Per una visita ortopedica in media 48 giorni, 58 per una visita cardiologica, 69 per una prima visita oculistica, a meno che uno non vada privatamente, ovviamente, ma questo non viene preso in considerazione. 87 giorni per una colonscopia, 78 per un'ecografia all'addome, 62 giorni di media per una mammografia e 40 per un'estrazione dentaria. Michele Bocci cosa fa? Beh, Repubblica dice: per alcuni giorni abbiamo provato a fissare 5 visite specialistiche nelle ospedali di 10 città. I risultati sono questi, tutti certificati. Il caso limite, ovviamente, è quello della mammografia a 580 giorni al Policlinico di Bari, dai 45 ai 580 giorni. Sono tutte certificate, pagina 18-19. C'è anche l'intervista però all'azienda ospedaliera di Pisa, dove invece succede che praticamente in giornata, come conferma il direttore Carlo Tomassini, vengono evase le richieste. Con un'idea semplice, gli esami li facciamo in giornata. Come avete fatto, Carlo Tomassini? Beh, con un'idea che è banale. Abbiamo bilanciato domanda e offerta. La prima la conosciamo, cioè la domanda, perché sappiamo quante richieste fanno al giorno i medici di famiglia pisani, 50. E così il giorno dopo i nostri ambulatori devono fare 50 visite con ecocardiogramma. E i pazienti cosa dicono? Sono stupiti. Contenti. Per qualcuno il giorno dopo è addirittura troppo presto e ci chiedono di rinviare. Così abbiamo messo il limite della risposta a 3 giorni. Le cose vanno così bene che presto partiremo anche con l'ecografia all'addome. E le ricette hanno priorità, non c'è bisogno, con attese così veloci non serve distinguere tra urgenze, controlli o prestazioni differibili. Insomma, in un anno siamo arrivati a 12.000 visite, a 12.000 pazienti. Ci sono anche casi di eccellenza, ma certo ci sono anche casi clamorosi, appunto. Addirittura Repubblica dice: a Roma c'è anche chi non prende nemmeno appuntamenti. Nemmeno appuntamenti. Vabbè, saltiamo dal campo della medicina al campo universitario, dove c'è una nuova polemica dopo che ieri abbiamo raccontato che al Politecnico di Torino si vogliono in qualche modo far fuori corso, cioè farli pagare nuovamente le tasse, fare rifare gli esami se bighellonano un po' troppo tra le aule magari fumo universitarie. Esiste ancora l'aula fumo, la statale di Milano? Penso di sì, dovrei farci un salto per capire se esiste ancora. Comunque, la sfida dei rettori nuova è questa, lanciata questa volta sempre da un Politecnico di Milano, dal rettore Giovanni Azzone, è questa: genitori, non venite agli open day per i figli. È un anatema, racconta sempre Repubblica, pagina 22, mamme e papà smettano di venire agli open day dei figli perché così li influenzano. Insomma, li rendono bamboccioni, li iperproteggono, impediscono loro di imparare a cavarsela da sola, acquisire quelle abilità che sono fondamentali per affrontare il mondo del lavoro. Genitori, non venite agli open day, lasciate che scelgano l'università da soli i vostri figli. E questa è la polemica, mancano però, non mancano le obiezioni. La prima è di carattere economico, dicono molti, i genitori pagano le rette dei ragazzi, quindi è un loro diritto sapere dove andranno a studiare, anche per capire se l'investimento sarà oculato. Questo fenomeno è conseguenza della crisi del sistema, dice il rettore dell'Università di Pisa, Massimo Augello, e delle diverse prospettive di studio. Altra obiezione è che non si possono privare i genitori del diritto di dare un consiglio ai figli. Certo, poi il limite tra consiglio e in qualche modo influenza è qui che forse il rettore di Milano ha voluto fare un appello. È molto labile, molto labile. Ora però io devo fare un appello, saltando veramente a un altro tema, il tema di cronaca nera, il delitto di Roma. L'appello, che sarà inascoltato sicuramente, è al padre di Manuel Foffo, uno dei due accusati, dei confessi, poi bisognerà vedere chi è stato più responsabile o se entrambi responsabili dell'uccisione di Luca Varani. L'appello molto semplice a Walter Foffo sarebbe quello di un dignitoso silenzio. Ha parlato anche troppo, anche perché quando fa interviste come quella sul Messaggero, intervistato da Camilla Mozzetti, dice alcune cose che obiettivamente così potrebbe anche risparmiarsi. Vabbè, racconta di suo figlio. Tutta l'intervista è imperniata sul fatto che suo figlio non sia omosessuale. È vero, ha avuto un rapporto orale il 31 dicembre con Marco Prato, che lo ricattava. Dice il padre di Manuel Foffo, lo ricattava. E quindi mio figlio si è sentito stretto in un angolo, me lo ha detto, anche per questo ha accettato di reincontrare Prato per cercare di convincerlo a cancellare quel filmato. Ma poi cos'è che dice a un certo punto? Ma la domanda è questa, mio figlio non è gay. E lo dice con una certa insistenza, tanto che la giornalista del Messaggero gli chiede, ma scusi, un figlio è meglio averlo drogato che omosessuale? E il padre non risponde. E poi aggiunge questa frase. Non è vero che ha avuto un rapporto sessuale poco prima del delitto. Hanno avuto un solo rapporto sessuale, lui e Marco Prato, lo scorso 31 dicembre. A noi, Foffo, non piacciono i gay. Ci piacciono le donne. E mio figlio non è da meno. Capito? A noi, Foffo. I Foffo. Ecco, consiglierei davvero, davvero, un dignitosissimo silenzio. Nessuno giudicherà un padre per quello che ha fatto il figlio, ma per le interviste che fa forse un po' sì. E quindi, se anche smette di rilasciare interviste, fa un bene a se stesso, ancor prima che al figlio. Cosa vi devo raccontare? Vi devo raccontare che se uno gira pagina questa intervista trova sul Messaggero e anche su Libero una storia, voglio dire, già nei titoli non c'è neanche molto da approfondire, nei titoli dice tutto. Roma, la coca viaggiava su ambulanza. Usavano l'ambulanza per spacciare. Indagati in 14 ad Umberto I di Roma. L'inchiesta sull'uso improprio, leggermente improprio, dei mezzi dell'ospedale. Li prendevano pure ad andare dall'estetista. Ovviamente c'è anche una storia di furbetti del cartellino, cioè quindi timbravano, poi usavano l'ambulanza, andavano dall'estetista, facevano i fatti loro e poi la usavano per spacciare cocaina, l'ambulanza. Ma cosa dobbiamo dire? Scandalo all'Umberto I, come titola il Messaggero, e direi ha ragione. Ma siamo all'articolo che mi fa pensare della giornata. L'ho trovato sulla Stampa, è una storia che viene da Bordighera, lo racconta a pagina 22 Loredana Demer, e io devo dire che effettivamente, ma sentite qui, allora Marco Fusi è un clarinettista molto famoso, celebre a livello mondiale. È tra i musicisti preferiti di Monio Vadia. Antonio Lubrano giudica il suo talento semplicemente meraviglioso. Per la scrittrice Lidia Ravera ti aggredisce per seduzione con la sua musica. Che cosa ha fatto Marco Fusi? Ha detto ispirato a quello che ha fatto Bocelli a New York. Il maestro Bocelli ha fatto una straordinaria performance artistica per strada, no? E la potete vedere su YouTube. A un certo punto si è messo lì e ha cantato per strada, come succede sulla Fifth Avenue, come succede un po' in giro per il mondo, dando un po' di colore, dando un po' di allegria, dando un po' di gioia a una città sempre indaffarata a fare, con le persone indaffarate a fare niente spesso a correre di qua di là. Allora Marco Fusi ha avuto questa idea, mi metto lì e suono per strada a Bordighera e il vigile lo multa 2.000 euro. 2.000 euro il virtuoso del clarinetto multato dai vigili perché suona in strada e viene multato per accattonaggio. 2.000 euro a Bordighera. No! Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Se atleta il giornale alla mattina e non capisci niente, provo a ascoltare Alessandro Milan a dire che è quella tal vai di tal tastongle. Dialetto sermidese, bassa mantovana. Beh, ma straordinario questo dialetto della bassa mantovana del nostro ascoltatore. Via WhatsApp al 349-238-6666, ce l'ha mandato con un audio perfetto. Beh, grazie, grazie caro ascoltatore, eh? Grazie davvero. Se poi vi firmate, come dico sempre, dice sono Giorgio dalla bassa mantovana, Antonio, Filippo, non lo so, così magari mettete anche la vostra firma e vi autosalutate. Allora, cari amici, ci sono due condanne che scuotono un po' la politica. Una, per la verità, con la politica c'entrerebbe poco, ma si sa che quando si parla della famiglia Berlusconi e Confalonieri, ecco che riguarda anche in qualche modo la politica. Una condanna certamente c'entra con la politica, è quella a Denis Verdini, 64 anni. Condannato 2 anni per concorso in corruzione per la scuola Marescialli, l'appalto, come racconta il Corriere della Sera. Il senatore si sarebbe attivato per aiutare Fusi, un'altra persona che è stata già condannata, segnalando inoltre il De Santis, un'altra persona nel processo, per la nomina a provveditore. Per i suoi avvocati non ci sono elementi per dire che Verdini fosse informato da Fusi del suo intento criminoso. Sta di fatto, come racconta Alessandro Trocino a pagina 5 del Corriere della Sera, che la condanna è arrivata. È anche vero che la vicenda finirà certamente in prescrizione, però è chiaro che tutto ciò crea problemi all'interno della maggioranza. Come racconta Maria Teresa Meli nel retroscena consueto per sondare gli umori a casa Renzi, ecco che Renzi dice ai suoi: sono tutte strumentalizzazioni. Perché attaccare noi quando sanno tutti che ALA, cioè la formazione politica di Verdini, non è in maggioranza e non ci entrerà? Se Verdini sarà condannato in via definitiva pagherà, come è giusto che paghino tutti, ma cosa c'entra con il governo? Ecco, questa è la domanda che Renzi vuole lanciare, lo fa non in maniera pubblica, ma fa trapelare questa domanda. Cosa c'entra Verdini col governo? Il Fatto Quotidiano invece dice c'entra moltissimo. Fabrizio D'Esposito, pagina 3, a parte i voti sulla fiducia, le volte in cui Verdini dice abbiamo sostenuto con il voto al Senato i provvedimenti del governo. È vero, non sono nel governo, anche se l'obiettivo, qualche retroscena raccontava, di entrarci prima o poi. Voti, favori, poltrone, ecco il patto tra Matteo e Denis che vuol dire fiducia. Questo è il titolo dell'articolo di Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano, che racconta insomma i legami tra Verdini e Renzi a livello politico. Anche Repubblica, Verdini 2 anni per corruzione, riparte dunque lo scontro tra i Dem. Subito si è fatto vivo Gotor, che è il bersaniano più bersaniano che c'è. Questo perché, racconta nei giornali, Bersani, che come scrive il Corriere l'ha giurata ormai a Renzi, manda avanti i suoi fedeli a criticare, a dire ma come, non c'è imbarazzo per il fatto di questa condanna a Verdini. Dicevo però che le condanne sono due del giorno, c'è anche la condanna a Pier Silvio Berlusconi e Confalonieri. Anche questa vicenda, per la verità, finirà in prescrizione, racconta per esempio Luigi Ferrarella, pagina 20 del Corriere della Sera. Assoluzione che era stata data in appello annullata e ora la condanna per frode fiscale sull'annualità 2007, circa 1.800.000 euro, tra l'altro anche con la temporanea interdizione degli uffici direttivi, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione a Berlusconi, Pier Silvio e anche con falonieri che dovranno risarcire a parte l'Agenzia delle Entrate, in solido con i responsabili civili di RTI e Mediaset. Questo finirà in prescrizione, ma perché viene messo insieme? Perché il Fatto Quotidiano dice: loro sono i maggiori sostenitori all'interno di Mediaset del cosiddetto patto del Nazareno. Repubblica in maniera chiara mette le due vicende nella stessa pagina, Verdini sopra e Berlusconi e Pier Silvio, Berlusconi e Fedele Confalonieri sotto. Tra l'altro Repubblica fa anche un lungo articolo a pagina 11 sul personaggio Denis Verdini, dalla bancarotta alla truffa, considerato il collezionista dei processi, fu addirittura processato a Firenze nel 2002 per violenza sessuale. Denis Verdini poi fu assolto, però lo accusava una cliente della banca di cui era presidente, il Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio. Ma insomma, l'elenco dei processi effettivamente non sono pochi. La Verdini su questo a volte in maniera anche provocatoria ne fa quasi un vanto nelle rare interviste che fa. Non sono rare invece le interviste di Matteo Salvini. Matteo Salvini anche oggi intervistato dalla Stampa, da Alberto Mattioli, e qui si parla dunque di amministrative. Oggi vi ricordo, tra l'altro, tra un'ora esatta avremo ospite Roberto Giachetti, candidato per il centro-sinistra a Roma, dopo aver vinto le primarie del centro-sinistra. Salvini dice, spiega il perché ha rotto in tutti i comuni, tranne che a Milano, dove ribadisce c'è unità a Milano, e dice: ho il massimo rispetto per Berlusconi, non sono un rottamatore, non sono Renzi, però la Lega ha rinnovato il suo personale politico e Forza Italia farebbe bene a fare lo stesso. Riguarda Bertolaso, chieda ai romani cosa pensano di Bertolaso. Io l'ho fatto e mi hanno detto quello che dico anch'io. Lui no. E così Salvini dice, insomma, io rispetto Berlusconi, ma con lui c'è gente di 20 anni fa. La mancanza di rinnovamento, che chissà se non deve riguardare per Salvini lo stesso Berlusconi e la stessa leadership del centrodestra, questo è quello a cui punta secondo molti. Ma Berlusconi non demorde, anzi, racconta Tommaso Labate a pagina 8 del Corriere della Sera: è pronto ad andare in TV, ovunque, nei talk show. Lo farò, e ha detto anche: Bertolaso, sarò con te dovunque mi vorrai, in qualunque iniziativa. Insomma, Berlusconi tiene duro, nonostante Giorgia Meloni abbia chiesto Bertolaso faccia un passo di lato, lo ha chiesto anche ieri qui a questi microfoni a 24 mattino, e invece no, Bertolaso tiene duro e Berlusconi con lui. Anzi, Berlusconi, secondo Libero, ha detto: Matteo Salvini si è comportato come un venditore di tappeti. Ha chiuso dove gli interessava e invece qui a Roma ci vuol far perdere, tanto lui a Roma non conta niente. Matteo e anche Giorgia sono sleali e mi sottovalutano. Ah, tra l'altro, a proposito delle amministrative, su Libero c'è un'altra storia che racconta Alessia Pedrielli. Questa storia, pagina 6, e riguarda un'altra candidata che accusa e dice: mi hanno dato della grassa. Sapete che anche Patrizia Bedori, ritirandosi dalla corsa al Movimento 5 Stelle, sì, per motivi personali, poi ha accusato: mi dicevano grassa e obesa. Questa volta tocca a Tullia Moretto, che è candidata a Bologna, o meglio, si voleva mettere in lista a Bologna nel Partito Democratico. Ha sentito però le offese direttamente in faccia e direttamente dai suoi compagni, e ha detto in un sfogo su Facebook: sono stata oggetto di affermazioni veramente basse, anzi per l'esattezza grasse. Ma insomma, ma Mauro Meazza, ma siamo ancora a questo livello, noi uomini, noi italiani, a dare del grasso e della grassa alle persone? Non ti puoi candidare. Mauro, caro Alessandro, quanto pesi tu? Quanto pesi? Abbastanza. Ho visto però che anche tu, in quanto candidato, ti sei candidato, non ti sei candidato anche tu. Mi candido a Roma, sicuro. Io comincerei a dirti che sei un po' pesantito, così per spianare un pochino la strada, poi dopo, come dire, l'insulto seguirà, ecco, come si dice. Va bene, si parte. Senti, controlla nelle prossime settimane la casella della posta, sì, perché arriva la busta arancione. Mi è venuto un po' squillante, come è arrivato la rottina. L'Inps scrive: chiedo scusa, in realtà la cosa è molto seria e ne riferiamo nelle pagine di norme e tributi che tu leggerai, come sempre, in modo... No, religiosamente. Bravissimo, avidamente le pagine della finanza, invece enorme tributi religiosamente. le buste arancioni che ti devono segnalare, con cui ti segnala come stai messo a contributi e anche una previsione pensionistica, previsione naturalmente basata sulle regole attualmente vigenti. Ma trovi tutti i particolari appunto nelle pagine di norme e tributi. Io poi ti volevo chiedere come stai con l'inglese, com'è il tuo inglese? Io me la cavo, quando parlo in inglese mi deridono un po' tutti. Allora Twitter. È meglio che lo ripassi, perché nelle pagine del Sole 24 Ore ti avvisiamo anche che si aspetta per Pasqua un aumento deciso, intorno al 16% di turisti americani, quindi non vorrei che poi facciamo delle brutte figure per colpa tua anche con gli Stati Uniti. Già che siamo andati un po' oltre confine, ti segnalo poi la lettura con una certa attenzione di quel che ha detto Draghi, del monito del governatore della Banca Centrale. Sì, perché ha detto: va bene, noi della BCE stiamo facendo il nostro, magari se i governi facessero il loro. Questo riassunto malamente, ma trovi tutti i dettagli naturalmente a pagina 3. E poi ti volevo segnalare un'altra cosa: domani ricordati che si parla di risparmio su Plus, non è che anche se non ci sentiamo ti dimentichi di leggere Plus. Sono alle 6, ne dico. Ma si parla già oggi molto di banche e del decreto banche, perché la prossima settimana per il decreto banche potrebbe essere una settimana, dillo tu, decisiva. Bravo. Ma bisogna anche dirlo con questa decisione. Sì, sì, con questa intonazione. Decisiva. Allora, sappi che tra le altre cose, insomma, nel decreto banche si prevede l'abolizione completa dell'anatocismo, cioè l'applicazione di interessi su interessi. Tutti gli altri particolari sul Sole 24 Ore. Vado un po' velocemente per dirti, naturalmente ti auguro auguri per bene la tua partita di calcio, certo. Ma assolutamente, guarda, li ricambio che di il cuore. Bayern sia con te, che il Bayern sia con te. Guarda, ricambio di cuore per la tua serena domenica pomeriggio. Tanti cari auguri. Ti voglio segnalare in ultimo che c'è una sanatoria, insomma, un modo di evitare che le multe pagate online finiscano per essere considerate tardive. Cioè tu potresti pagare online, però sai, l'uomo propone, la banca dispone, come dice il proverbio, forse certo. Non era così, però insomma potresti finire per pagare in ritardo. Allora adesso stanno preparando proprio nel decreto banche una 2 giorni di cuscinetto per poter sanare queste posizioni. E perché ti ho parlato di multe? Chissà. Per il mio saluto, con un caro augurio di fine settimana per tutti. Traffico! Alessandro Milan, l'antidepressivo dell'informazione. Vabbè, cari ascoltatori, sono le 7:50 minuti, dobbiamo correre, devo leggere 2 notizie, tutte le altre le ho tagliate perché non sono mai, ormai non c'è più spazio, non c'è più spazio per leggere tante cose che vorrei leggere. Allora, Repubblica mette in prima pagina l'appello del segretario di Stato americano John Kerry: il genocidio dell'ISIS, cioè lo Stato Islamico. Guardate che l'utilizzo di questa parola, Repubblica, fa bene a dare ampio risalto, è importante, perché quando il segretario di Stato parla di genocidio, un precedente ci fu quando ci fu il Darfur in Sudan, l'utilizzo di questa parola può dare il via alla possibilità di maggiori raid, di forze speciali, di pressioni da parte dell'ONU. Insomma, l'utilizzo di questa parola, usata pochissimo nelle prese di posizione ufficiali dei governi americani finora, può alzare le soglie di attacco da parte della comunità internazionale. Mentre un'altra problematica molto seria si sta profilando in Brasile, mentre saluto tutti gli amici di Facebook, siamo anche in diretta sulla nostra pagina ufficiale 24 Mattino, 24 Mattino la trovate così su Facebook. Ebbene, in Brasile c'è stata una nomina a ministro da parte di Lula, ex presidente, nominata dal presidente Dilma Rousseff come ministro per, diciamolo francamente, per evitare il rischio di un arresto. E allora, siccome è stato nominato ministro per bloccare un eventuale arresto, un giudice, il giudice Sergio Moro, ha annullato la designazione a ministro. C'è uno scontro magistratura-politica che non si vedeva neanche ai tempi di Berlusconi in Italia, evidente. Gente in piazza, Brasile, bloccata la nomina di Lula. ondata di proteste in tutto il paese mentre il governo annuncia ricorso. Roberto Darin racconta, pagina 13 del Sole 24 Ore, questa vicenda che però finisce su tutti i giornali. Il Corriere della Sera la mette a pagina 2 e 3 addirittura, dando ampio risalto. E Giuliano Ferrara fa un articolo sul Foglio, un editoriale di prima pagina, un lungo editoriale, evviva il Lula ad personam. Tra l'altro Lula, icona della sinistra, Giuliano Ferrara parte dal Brasile per raccontare, insomma, che questa icona della sinistra mondiale dà una lezione ai girotondi italiani, coloro che sono sempre stati contro Berlusconi e la personalizzazione delle leggi, questa è l'accusa. Evviva il Lula ad personam che si fa nominare ministro. A Giuliano Ferrara non par vero trovare un'icona di sinistra da sbattere in faccia in qualche modo ai girotondini italiani. Che fine hanno fatto poi i girotondini italiani? Vivono ancora, esistono ancora, insomma, combattono, lottano insieme a noi. Mentre dal Brasile c'è anche tutta la tematica, tornando in Europa, la questione migranti. Sono trattative finali e oggi i giornali rischiano di essere un po' vecchi in questo, perché la trattativa è stata fatta fino a notte per cercare di risolvere il problema dei profughi, soprattutto quelli bloccati in Turchia. Il rapporto è sempre quello, Unione Europea-Turchia. C'è un nuovo vertice europeo per cercare di sbloccare questa situazione. 2 milioni oltre di profughi in Turchia. 2 milioni e mezzo per la verità. Bisogna capire se l'Unione Europea arriva a fare questa trattativa finale con la Turchia. Qui i giornali, ripeto, non raccontano, anche se rischiano di essere un po' superati nelle cronache. Rientriamo a cose italiane in rapida conclusione. Vi segnalo sulla stampa una pagina, ma lunedì credo che ne parleremo. Arrivano, dopo le unioni civili, i contratti prematrimoniali. C'è una proposta di legge di due deputati, uno del PD e uno di Forza Italia, PD Morani, Forza Italia D'Alessandro, che vogliono i contratti prematrimoniali. Firmate prima gli accordi, come si fa in vari paesi, negli Stati Uniti, così se poi vi separate sapete già a cosa andate incontro. La stampa dedica una pagina a questo, lunedì approfondiremo. Ecco, qui, rapidamente, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile sui giornali, eccolo qua, Oscar Grazioli che torna. Già mi fa arrabbiare all'inizio dell'articolo dicendo che oggi è la giornata mondiale del sonno. Io infatti oggi sono in testa alla classifica mondiale. Comunque, insomma, l'articolo di Oscar Grazioli è: anche gli animali sognano. Gli animali, i nostri cani, i nostri gatti sognano. La mia gattina Zen ieri era lì tutta assopita. Ho fatto Zen, miau, si è svegliata, forse era un incubo. Poi mi ha guardato e mi ha detto miau, miau, che vuol dire? Ma dammi due crocchini e non rompermi i maroni. Ma chi se ne frega!